farà di ascolto su queste frequenze, su quelle frequenze. Faceva, poi c'era venduto, tipo quello che abbiamo uguale, tipo quello che vabbè tu perché è doppio display, come un display solo, è un peccato, perché secondo me, ti ripeto, il radioascolto è molto utile soprattutto per chi ha intenzione poi alla fine di fare l'esame che mi accingo a fare io, o che mi accingerò o che farò io se tutto va bene. E quindi io mi sto rendendo conto che gli apparati, una volta che li acquisti, devono morire con te, capito? Lo so, infatti ne ho tanti, lo faccio più ascolto che altro. Adesso c'è di uno solo acceso per questo, anzi tra l'altro lo sto provando, perché ho scoperto qual era il problema del 440. Non ti ho chiesto niente, non mi hai detto che sto uscendo male, quindi io sono di quelli che prima di entrare si ascolta, perciò non sono molto abituato a chiedere controlli. Ho scoperto qual era il problema. Qual era il problema? Qual è il problema? Perché se l'ho comprato? Ho un condensatore in corto che praticamente quando scalda la radio va in cortocircuito e mi annulla il display. Allora adesso ve l'ho cortocircuitato io e sta funzionando, però non può funzionare per grandi periodi. Adesso ho preso la sigla e martedì lo compro e glielo sostituisco. Però bello per la radio, risponde alla grande, ottima ricezione, ottima trasmissione. Ma l'unica cosa, ti tiri dietro un po' di rumore della ventola forse? Questo amplifica molto. Sì, c'è la ventola in funzione. Un po' rumorosina, ma poi la faccio diventare più silenziosa, perché ha un 3-4 mesi ferma questa radio, perché ogni volta che l'accendevo, dopo una mezz'oretta che la stavo usando, spariva il display. Quindi oggi mi sono messo in testa di capire qual è il problema, l'ho risolto. So qual è il problema, quindi adesso posso usarla a tempo pieno. Un condensatore, quando rimane fermo il radio, un condensatore proprio sulla parte del display, sulla scheda digitale del display. E dopo che scalda appaiono tutti i puntini, si spegne completamente il display, non sai più dove sia andato a finire. Però non lo stavo usando per quello, non mi piace non parlare, non vedere dove siamo, perché la radio non c'è assolutamente niente, si spegneva solo di display e basta, si spegneva, non si può mai spegnere perché rimane in digitale, però non ti dà la frequenza, invece adesso è a posto, ce l'ho già un bel po' acceso e va bene, ho capito che questo condensatore è andato in corto, ora bisogna cambiare. Quindi la modulazione va bene, è forte, lascia perdere che si porti appresso la ventola perché ce l'ho aperto, poi quando lo chiudo gliela le metto il suo olio, quello particolare, quello da singere, quindi sparisce questo rumorino, questa impurità che c'è, che è una molto ferma. Ho sentito che ti sta arrivando una bassa. No, il telefono è mia moglie, adesso è mia figlia. Ma ti stavo dicendo, sì, anche Luca dice che aveva quel problema, io gli ho detto, ho pensato di oliare un pochettino la ventola, che è quella cilindrica, no? Dell'apparato stesso. E cosa ti stavo dicendo? Ma è possibile che sia anche una saldatura secca, come la chiamano i tecnici, nel senso che si sia staccata? Nel condensatore è possibile che sia, che non faccia contatto bene, quindi sia una saldatura chiamata anche secca, perché andato in corto mi sembra strano. Quando il condensatore va in corto, quando si buca, perdono liquido, è già troppo, non mi ha fatto male. Quella che è rimasta parecchio ferma, perché io sempre tornando al discorso della prosopopea, non voglio dire per, ma di che ne ho tanti, e quindi da quando ho preso 400 quando lo usavo in ascolto, oppure lo usavo così qualche volta per fare dei passaggi in HF. Dopodiché questo problema mi ha un po' rotto le scatole, l'ho messo da parte e ne ho preso un altro di 440 di un radiolettore che non lo sto usando più. L'ho tenuto un bel po', funzionante, perfetto, molto più nuova della mia perché è una serie più nuova, e poi è capitato che dovevo fare un'operazione e quindi ne sono soddisfatto di quello. Allora ho detto, voglio usare di nuovo 140, sono andato nuovamente ad usarlo e non lo faceva quel difetto qua. Si deve essere messo a posto. Invece come si è bucato il liquido stesso, ha tappato un pochino ed è andato avanti per qualche mese. E poi ho iniziato nuovamente a farlo. Io l'ho aperto, mi sono accorto ieri del problema, ieri sera quando ogni tanto rimanevo in Corrix, e oggi l'ho terminato, ho detto lo voglio provare. L'ho tutto ripulito con la trierina al posto del condensatore, però ho visto che è bucato. Allora l'ho fatto un ponte, l'ho cortocircuitato io, ma lo tenevo a tensione, sta funzionando, però è completamente scarico il condensatore, l'ho sostituito. Gli hai fatto un ponte dalla testa, dalla parte alta al divino. Esatto. Allo? Allo? Allo? No, bello. Allora, sistemato il 440, ma devo cambiare il condensatore. Quello che praticamente dà tensione al display. Si alteravano, però ho fatto uscire tutti i puntini. Adesso l'ho fatto un ponticello, poi è completamente bucato, è completamente esaurito. Adesso appena apro, lo prendo, lo cambio. No, di quelli piccoli mio, non sono grandi, che ne ha tanti, c'è tutta la parte del ricevitore, trasmettitore, poi neanche avanti dei condensatori, la parte del display. E così sto usando anche quello. Dunque, a differenza di radio, c'è tra 430 e 440, 140, come la modulazione? Molto lo stesso, diciamo che la 140 è più prepotente. Dovrei ascoltarti. Vabbè, comunque va bene lo stesso. Aspetta un attimo, questa qua è appena accesa. Va bene. Avanti, chiamato anche a te. Io. 140 è quello lì. Non credo che se ne facciano più così, non come questi. Sono molto, molto spinti, maledizione. No, ma vabbè, sto parlando piano piano. Il mic è basso, ce l'ho tra lo 0 e neanche l'1. Tra lo 0 e neanche l'1. Ma va bene così perché vedo il picchio che sale, il picchio di modulazione che sale. Come dice la ventola molto rumorosa, perché sicuramente si è riempita di polvere. Vabbè, l'importante è aver capito qual è il problema. Avanti, ho Antonio Grode, che mi bevo un goccettino di acqua e menta, che c'è una sete allucinante. Il 440, hai detto 440 SAT oppure il 440 SAT è un altro apparato? No, io ho il 440 SAT SAT, che è l'ultimo, praticamente quello c'è tutto, tutti i filtri, scheda frame, e la correttore incorporato, tutto. Il gemello mio ce l'ha Sandro con il produttore, cioè praticamente il gemello di questo che però io gli ho dato quello più nuovo, perché questo c'era questo problema del coso, dovremmo mandare a riparare, invece non lo sono riparato io, ho risparmiato 250 euro minimo, sicuramente, se non fosse di più. Riparato, ho capito qual è il problema, adesso compro il corretto condensatore, martedì, e lo sostituisco. Per il momento lascio così aperto, quanti picofaradai è, da quanti volt? 12 volt. Picofaradai? 60. Ce l'ho, eh? Ce l'hai? Devo guardare, ma mi sembra che uno da 60 a 12 volt ce l'avevo. 12 volt, 12 volt ti serve. Come grandezza, quant'è? Ah, è la metà del mio, è piccolino, proprio la metà. Non ho misurato, ma io non l'ho stacchiato, non ce l'ho in funzione. Lo sto usando, quindi. Non ti preoccupare, non avere nessuno, mi ha staccato di vicino, anche se non andava. Era giusto perché mi ha fatto un po' girare le scatole. Quando l'ho aperto ho visto che era di come sotto, perché si è bucato, ha perso tutto quel liquido che c'è all'interno. E fortunatamente non mi ha fatto altri casini, l'ho sollevato, praticamente l'ho dissoldato, sollevato, pulito tutto con la trenina, lì c'è sicuro stampato, si pulisce sempre con la trenina, non usate altri prodotti perché altrimenti siete fottuti. Con la trenina poi mi sono comprato la bomboletta, quella dello spray, quello ad aria, dai. L'ho soffiato leggermente, gli ho dato un'altra passatina di trenina, dopodiché l'ho ripuntato a terra, però tenendo il puntale di sotto stacchiato, ho fatto un ponte con un pezzettino di filo da sopra al puntale di sotto, la radio sta funzionando perché praticamente non c'è più alimentazione verso tutta la sua l'alimentazione, quindi non alimenta gli sprizzi, io non faccio il ponte. E sta funzionando perfettamente. Anche scarrellato con UFO in tutte le frequenze, non solo queste, ma anche quelle FF, è perfettissimo. Il segnale di un canale 440 è allucinante, è perfetto proprio il suo segnale. Mentre il 430 è sempre inferiore. Luca deve arrivare qua, 9 più 35 è stabile, 9 più 35 è con 440. È perfetta la radio, perfetta. Perché ancora non si è mangiato il panino ai candelieri? Come mai non sei ai candelieri, Luca? No, sei ai candelieri, questa volta niente. Faccio una cena qua, ma mi hanno invitato anche. Poi devo preparare ancora tu. Oh, vabbè. Sono pronto, la roba a posto, stirata. Poi faccio la doccia. E poi si parte. Non ci faccio a casa niente, così vado. Sai com'è, no? C'è una berrettina tua e via, no? Una passeggiata e tu bagattaggio. Queste sono le vere soddisfazioni della vita. Io l'ho sempre detto, una birretta, un paninetto e sei, come si dice, nel più del mondo. Sì, ma infatti, quello. Io ho trovato un amico, ho detto, va bene, una birra al bar, l'allello, ok, quel bar del piccolino, fatto il caffè. Ho mangiato e ci abbiamo bevuto, ero qua, sono andato un comando, stordito, infatti mi sono addormentato, c'è un po' un mal di testa, perché era stato col vuoto, ma fottito. Che si sta facendo la mentuccia, si sta facendo e se la fa con la gazzosa, no? Vabbè, poi c'è questa cosa, forse era meglio quella minerale, la menta, la fresca, la sapete di 70, la limonata con la puntina di menta. Avevo sentito qualcuno che mi chiamava sotto. Ciao, avanti. Attenzione, attenzione, con questo potentissimo farà ascoltare i dati ad importa. Padre Rogero, Gianni Dinamite di Chiaramonti, ben sentito e ben ascoltato, viene avanti, a 100 anni. Oh, no, ho adattato il farà ascolta oggi. Dai, parla per la discussione, dai. Fa se funziona, non so cosa sia il parla ascolta, ma stai arrivando bene, stai arrivando bene. Come non ti ho mai sentito, almeno, non so se sei in stazione fissa o in stazione mobile. Ti volevo chiedere a proposito, ma quell'alimentatore vuoi che te lo prenda o no? Allora, dovrebbe essere intorno ai 69 euro ed è 30, adesso non mi ricordo se è 30 ampere, tu prendilo per 30 ampere, poi può essere più o meno 2 o 3 ampere, dai. Anche perché adesso che l'altra volta stavamo parlando con Claudio e mi ha detto di che sta consigliando un che è diretta la 2.20 senza stare di là. Allora prima infatti devo chiedere il prezzo a usare questo amplificatore e poi devo solo andare a prendere il baracchino, devo solo andare a prendere. Però prima di andare a fare questa roba devo vedere l'amplificatore. Diffida sempre da quello che, di quello che ti dice Claudio, diffida dello sparviero. Tu senti quello che ti dice il Grode, che il Grode ti vuole bene e ti fa diventare vincente. No, ma io mi sono informato bene già. Questo amplificatore che è buono, molto, molto buono, guardarlo anche su internet. Non è uno dei migliori, ma per quello che ne devo fare io, prendendo qua, ci sono più degli uffici. E l'antenna cosa ti sei preso? Guarda, già 16 radiali, si chiama Silvio, non mi ne vedo se prendi ancora, non è qua, Si chiama? Si chiama? Allora, dovrebbe essere, non è una C-Cortati. Adesso non mi ricordo se è una 7-8, lo sai che non mi ricordo, comunque non è una 5-8, assolutamente. Ma come si chiama il nome? Adesso non me lo ricordo, sono in macchina, mi stavo facendo una della sistema di mezzo. Ho detto va bene, dai, andiamo un po'. Questo è tutto su internet, ovvio. Ma non ho capito com'è, di che marca è. Guarda, quando vado a casa te lo dico, e così so qual era la marca e siamo a posto. Adesso ti scusi anche a me. L'amplificatore è baracchino, te lo posso dire che non me lo ricordo, ma se la vado non me la ricordo più bene. Sono a Cirio. Cirio, ma non ne sono molto sicuro se era Cirio o Stella, boh, non me lo ricordo. Sirio o Cirio? Sirio è a Napoli. No, davvero, non lo so, non me lo ricordo bene come... Fatti Roger, se la Sirio dovrebbe essere la Sirio 2016, che ha 16 radiali, 2016, ed è una 5 ottavi, perché... adesso non mi ricordo, è 5 ottavi... non mi ricordo cosa c'è subito dopo, ma la 5 ottavi va proprio bene, la Sirio fra l'altro è un'ottima antenna, ha una carica coperta, nel senso che il mollone di carica, la che sta alla base, è coperto da una specie di box in plastica, ce l'avevo anch'io, però avevo la Sirio 2008 e gli puoi caricare, mi sembra intorno ai 7 dB o 6 dB di guadagno, quindi tutto quello che ci carichi sopra lo devi moltiplicare per il numero di dB e sai con quanto stai uscendo, quindi va benissimo. Per quello ho fatto un carico del genere e niente, adesso no, non ce l'ho più la postazione fissa, ci ho fugato tutto, ho sotto tutto e sto molto sopra la via, un punto proprio magico per modulare e dire, non dico 360 gradi, ma il 90% della stazione ha fatto proprio molto bene. Sì, però qui che sta innescando, sentimi un attimino, guarda che se ti serve una mano non ti preoccupare, l'unica cosa ti devi comprare, se la vuoi piazzare bene, del tassello chimico, una barra filettata, te la posso portare io, e dopodiché delle gaffe per il tubo d'antenna, e ti compri anche un tubo telescopico che arrivi almeno a 5 metri, 6 metri. Voglio anche passare allo stesso l'antenna, troppo alto. Ma tu stai dicendo il coso per i tiranti del palo? Ma non i tiranti del palo, dove aggancia l'antenna, perché comunque sia ci sta molto bene. 10 metri vogliono sorrisi, A parte che non è 10 metri, se è la Sirio 2016 sarà 5,60 metri. Hai fatto un tubo? Col tubo, tu, importante che ancori bene il tubo, poi l'antenna non va da nessuna parte, che è testata per resistere a 110 km orari, cosa tira? Borali. Io non lo conosco, il vento molto, molto, molto bene. Una volta ho fatto l'errore di non legarla, e non la leggo, e la legherò per sempre. Non mi costa niente mettere due fili all'antenna, tu non ti immagini il vento, quando tira sembra, allora da dritta che si piega a mezza luna, e le dici no, la prossima volta si lega, da parte del vento si lega, infatti dopo averlo legata non si può mettere a maestrare. Mi ha tolto tutta l'antenna, la mia antenna era dritta, perfetta, sembrava un pallone. K. Allora ci bisogna metterci un coso, te lo vendo io, un mini impianto eolico, una cosa, una pala eolica piccola, e non sto scherzando, mi guadagni anche in corrente. Sì, se è così ti conviene metterti dei tiranti in nylon però, devono essere in nylon, in lenza grossa, allora sì, la puoi mettere. Queste cose, la porcheria le paghi, perché una volta che l'hai tirata su non puoi stare alzando e facendola scendere. Ma il cavo cosa ti sei preso? Il cavo stavo parlando, ne stavo discutendo con un po' di gente, mi ha detto qui 30, prende il 513, 50 euro, quello era di 58, la notizia è cambia. Faccio, eccola, è scappato adesso. Ho la tabella di quanto perdi in dB, ogni è la velocità del cavo. Allora, l'RG58, l'RG8 ha, che ha un'impedenza di 52 ohm, noi dovremmo mettere il 50 ohm se non sbaglio, e comunque ha una velocità di 0,66 e un'attenuazione di 0,98 decibel ogni 30 metri di cavo. Tu quanto c'hai di calatta? Quanto c'ho? Calatta, cioè dal baracchino all'antenna, al PL dell'antenna, quanto c'è? Allora, dovrebbe, allora, 25 metri sono più difficili. Ti toglie circa da 1 a 2 a 2 dB, bisogna vedere che cos'è RG8 o RG58 hai preso? No, io avevo l'RG58, ma sono state scontate, non so guardare il giornalino, mi sto dicendo che ho fatto il carico, ho fatto il controllo dalla stessa del pieno, ho fatto giù in postazione mi dava 80, 90, anche 104, giù all'antenna me ne portava 50 soli, e in pieno non c'era niente da fare, il pieno era un po' più bruno, era tutto a posto, ma perdendo così tanto, era fatto il tanto così. Io non sto guardando un giornalino, ma sto guardando un test per l'acquisizione della patente come radioamatore. Ma a prescindere da quello, queste sono le tabelle comparative di cosa perde un cavo ogni 30 metri. Poi se il tuo perdeva 30 watt, sicuramente aveva un problema, un grosso problema, che non era dato dal cavo stesso, perché 30 watt non li perdi in 30 metri. Diciamo che ha fatto per la mano, tranquillo, facile. Giorni ha preso una volta notte, cosa una volta non faceva preciso, e comunque a casa io non ho seguito la regola della velocità della corrente, diviso la frequenza del centro banda, se no io dovevo fare 300.000 diviso mettevo 23,70 che andavano anche bene, magari non avrei avuto questo problema, invece ne ho messo 24 e 35 l'ho lasciato, oppure era 24 e quando io con la regola non ho più fatto, ho fatto male, ma al prossimo campo faccio così. Ma tu ricordati, a parte quello che comunque ti fa perdere ben poco e non pensare che sia quello che ti sfasa tutto, quello lì sfasa se non stai attento quando tagli ad esempio i cavi che sono preconfezionati delle antenne delle barre mobili. Però ti sto dicendo, sì, sicuramente tu più cose metti a puntino e più hai la possibilità di arrivare bene, capito? Però cura soprattutto, io adesso non so come tu sappia saldare, se sai saldare bene, se non si, come saldi PL, che tipo di PL stai usando, che tipo di cavo stai usando, investi su queste cose perché sono cose che ti durano per sempre. Soprattutto l'antenna è fatta bene, comprati una delle migliori come quella lì e ti metterai nella condizione di avere un'ottima antenna. L'apparato cosa stai prendendo? L'apparato, vediamo un po' questo Lincoln. E l'alimentatore? L'alimentatore non li passa molto a ferro. Ferro, ma con 80 ferro poi non alimenti solo il coso, l'apparato. Certo, alimento solo l'apparato, infatti. Quello, l'amplificatore che dovrebbe andare a prendere è a due tempi, capito? È a due tempi, quindi non avrei più problema di alimentatore. Roger, ascolta, cosa che ti volevo dire, ma l'apparato con quanto esce? L'apparato è tutto da regolare, non posso dire molto, non si può dire molto l'apparato, però so che qualcosa già esce, dai, da una città che non è. Ricordati sempre che ti devi ben informare, innanzitutto a seconda del watt con cui esce l'apparato non ti bastano 8 ampere, non ti bastano, bisogna vedere. E in secondo luogo devi stare attento che l'entrata dell'amplificatore supporti l'uscita dell'apparato, se non bruci i finali. Fai caso che sta un 24, perché glielo metto a 24, lo regolo a 5 e l'amplificatore diventa a 5 watt, perché entra a 10, lo regolo io. Regoli tu, però ricordati che ogni volta che moduli hai dei picchi positivi che ti possono far andare oltre. Comunque, attenzione Sparviero. Sono qua, ti ascoltavo, sono problema. Rizzato a correggermi, lo sai. Non ho piaciuto. Va tutto bene, ciao Gianni. Quando gli ho detto di non fidarsi di te? Era Claudio. So che non lo dici per male. Per ragione. Cosa? Sto finendo di sentire lui. Esatto, Nel Vigaramonti vedrai che farai una bella stazioncina, io l'ho sempre detto, adesso a parte gli scherzi, quando ti affidi alle persone che hanno esperienza non puoi che fare cose buone. Pronte. Mi ascolti? Attivo, mi stai ascoltando? Sto ascoltando, ma mi stai sentendo? Padre Roger, hai sentito il mio passaggio? Attivo perché no, non ho cambiato. E nel momento in cui ti affidi a persone che hanno più esperienza ti metti nella condizione di spendere magari qualcosina di più, però è una cosa che ti dura per sempre e ottieni i risultati desiderati, capito? Molto no, se lo facevo la prima non avrei più capito, non ne avrei meglio, quindi guarda, fai questo andavi bene, invece ho preso tante di quelle cose che sono tutte quante dentro lo scatolone e non me le faccio niente. Le esperienze negative vanno fatte, non è che bisogna vivere solo sull'esperienza degli altri, la faccia, cioè il naso va sbattuto anche da qualche parte, però arrivati a un certo punto quando uno vuole fare le cose serie perché si rende conto che non esce da determinate situazioni è bene che si affidi a persone che hanno un attimino più di cultura in merito. No, ma per la posizione di casa non le immaginavo, ci voleva un po' più di lavoro, per la macchina sono soddisfattissima, anche troppo per la macchina. Ti volevo chiedere, siccome qua ho passato del tutto, sto andando con l'immobile, non la potenza, vuol dire situazione radio, come mettete? Sei una radio di 4 perché ti stai tirando dietro un po' di QRM, sei un po' bassino, però va più che bene, almeno per come arrivi qua, zona Sierra Sierra, via degli astronauti, dai. Ah, ecco, aspettami un attimo, 1-1-1-1, adesso è aumentato un po' la radio. Sei aumentato, però stai un po' papperinando. Magari sarà questo cavo di parlascolta, dai, ho attaccato tutto quanto alle casse della macchina e magari mi senti doppio per quel motivo. Andare un po' la bocca al microfono. Non ho capito. È proprio per quando attacco la bocca al microfono che schiaccia, che fischia, invece quando l'attacco all'albero non fischia. E così, dai. No, ma adesso la faccio perché se no taglio le scarpe qui. Forse mi girano tanto le scarpe e sento solo dalla casa esterna, dai, del baracco. Claudio, che ti ha fatto? Sono qua. Buonasera, Alberto Gianni, sono qui. Buonasera, Claudio. Bene, c'è questi calori qua, no? Scusami, mi era arrivata una bassa. Vi lascio per un attimo e riprendo non riprendo perché sto scendendo a piedi, quindi mi dovete scusare, ci sentiamo più tardi. Ciao Claudio, ciao Gianni, ci sentiamo più tardi se coincide, dai. Ciao Anto, ci sentiamo più tardi, non c'è un problema. Ok, va bene. Comunque vai alla grande, vedrai che riusciamo a tirarti fuori da lì, Bel distratto però. Io stavi fischiettando, sai. Sono così appassionato, eh.